Vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Claudia Augusta. E, prima di iniziare vi racconto quelli che saranno i nostri prossimi appuntamenti. E, domani sera abbiamo la presentazione di un libro illustrato per ragazzi, Dudelhof, di Ruth Margit Folger, l'edizione italiana. Mentre la prossima settimana abbiamo il 25 la presentazione del libro di Sandro Tartar, La ferita dell'onnipotenza. E il 26 novembre invece una conferenza della psicologa Giuliana Franchini sull'amore dannoso. Però adesso do il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera, la conferenza che è in collaborazione con CESFOR. E si intitola Arte e Musica ed è dedicata ad Anselm Kiefer, L'erba crescerà sulle vostre città, e la tiene Gabriele Salvaterra, e musicisti che lo accompagneranno sono Luca Dall'Asta, Rino Cavalli e Gianni Casalnuovo. Buona serata, grazie. Grazie. Sì, stasera proveremo appunto ad approfondire il lavoro, di parlare insomma del lavoro di questo grande maestro dell'arte contemporanea, da molti considerato il più, se non il più grande artista vivente, sicuramente uno dei più grandi, famoso appunto per la sua grandezza in tutti i sensi, perché è davvero un artista dal grande peso specifico ed è un artista che ci ha anche abituati a opere, installazioni che hanno nella dimensione monumentale uno dei caratteri di distintivi più significativi, e lo vediamo già infatti in questa immagine iniziale che curiosamente rappresenta l'artista al lavoro di una stessa opera che è riprodotta in un libro che la biblioteca appunto ha messo qui in visione, in consultazione, che è un'opera appunto che è stata esposta in una recente mostra a Palazzo Ducale. E vediamo già appunto un artista di fronte a un'opera quasi con un aspetto romantico, un'opera appunto in cui entra con il proprio intero corpo, e in un approccio che ricorda anche, secondo me, quello di Friedrich, quindi l'idea ancora di un artista romantico legato a un'idea e appunto di genio. Perché l'erba crescerà sulle vostre città? Questo in realtà era il titolo di un altro documentario. Cioè quello molto recente di cui parlavamo prima, realizzato appunto da Wim Wenders, film documentario. Ce n'è uno del 2010, anche molto bello, che utilizza proprio questa citazione, in realtà in inglese, e che deriva appunto dal libro del profeta Isaia. I riferimenti biblici in Kiefer sono molto presenti, e c'è questa idea molto importante all'interno dell'arte di Anselm Kiefer, dell'idea di rovina, dell'idea di distruzione. Una distruzione però che non è fine, non è conclusione di tutto quello che può accadere, ma può essere anche in qualche maniera rinascita. Quindi l'idea che anche le nostre città nel futuro, lui ragiona per tempi molto superiori a quelli della vita umana, ragiona su tempi geologici, su tempi ancestrali, sui tempi delle stelle. Un giorno anche le nostre città diventeranno rovine, e comunque l'erba ricrescerà su queste rovine, e quindi ci sarà ancora possibilità di vita. E perché anche questa idea un po' apocalittica? E cominciamo con un po' di biografia appunto su Anselm Kiefer. Kiefer in realtà già dagli aspetti biografici della sua vita, già gli aspetti biografici della sua vita ci dicono, della sua nascita, ci dicono qualcosa della sua arte. Lui nasce in un anno molto particolare, il 1945, l'anno in cui conclude la Seconda Guerra Mondiale, e anche il luogo in cui nasce non è senza significato. Nasce appunto a Donaueschingen, nella Foresta Nera, scusate la pronuncia tedesca, Donaueschingen nella Foresta Nera, al confine con la Svizzera. Lui in realtà i primi anni della sua vita li cresce appunto a Ottersdorf, la sua famiglia è di Ottersdorf nel Baden-Württemberg, questo land tedesco appunto sul confine confine col fiume Reno e sul confine con la Francia, ma la famiglia è lì proprio per sfuggire ai bombardamenti delle forze alleate e nasce praticamente in una situazione di rovina, in una situazione di distruzione come quelle che tutte le guerre di tutti i tempi continuano a mostrarci. Appunto la famiglia è lì, lui nasce nel sotterraneo di un ospedale in rovina, tra le rovine, e si dice anche che i suoi genitori gli mettono la cera nelle sue orecchie per evitare che il giovane Hansen Kiefer senta i suoni appunto dei bombardamenti. Quindi nasce in questo contesto che in qualche maniera ritornerà anche nelle sue opere d'arte e lui, ecco, è un artista che utilizza la storia come materiale, è principalmente un pittore, però possiamo anche dire, e lo dice lui stesso, che per lui è la storia, la mitologia, sono i racconti appunto religiosi, mitologici della Bibbia a entrare nelle sue opere d'arte e a diventarne materiale. E poi è anche un lavoro appunto sui confini il suo, perché, ma poi lo approfondiremo, essendo nato al confine con la Svizzera, essendo cresciuto al confine con la Francia, è un artista che da un lato è profondamente tedesco, profondamente legato alla storia anche recente della Germania, ma è anche proiettato verso un grande multiculturalismo e verso un attraversamento dei confini. Non penso che sia poco significativo il fatto che sia nato appunto e sia cresciuto sempre su confini. E in che anni cresce Hansen Kiefer nel secondo dopoguerra? Cresce ovviamente in anni parecchio complessi per il popolo tedesco, per la Germania, e un popolo appunto che vive quella che Karl Jaspers ha definito la colpa tedesca. Come anche in un certo qual modo per l'Italia e gli italiani, crescere con la memoria dell'Olocausto, crescere per le generazioni che hanno attraversato nazismo e fascismo con un senso di coinvolgimento e responsabilità verso drammi storici che appunto si sono conclusi col 1945 in qualche modo, con la fine del nazismo e la morte dei grandi dittatori appunto che attraversano, dei principali dittatori che attraversano appunto l'Europa in quegli anni. Ecco, vive in questo contesto e si forma appunto, dicevamo, crescendo a Ottersdorf, e inizialmente Hansen Kiefer comincia intraprendendo gli studi di legge, che però nel 1966 abbandona, attratto appunto dalla carriera artistica. Prima si iscrive alla Scuola d'Arte di Friburgo e poi all'Accademia di Karlsruhe, dove studia con Peter Dreher e Horst Antes, che sono due pittori appunto insegnanti di Friburgo e Karlsruhe. In realtà però il suo principale mentore, potremmo dire, di quegli anni è il personaggio che vediamo, un personaggio curioso che vediamo alla testa di questo altrettanto curioso gruppo di o folletti della foresta o truppe di un gruppo militare anticonformista, pacifista, antimilitarista e anche legato all'ambiente. Quello che vediamo in foto è appunto Joseph Beuys, un artista fondamentale per gli anni tedeschi del dopoguerra, che appunto, tra l'altro, oltre a un grande artista, è tra i fondatori del Partito Verde della Germania, e un artista appunto che può essere incanalato, può essere descritto all'interno dell'arte concettuale, all'interno dell'arte performativa. Lui propugna questa idea di scultura sociale, fare delle azioni, parlare con le persone, parlare con la gente e unire arte e vita per fare, non per creare oggetti scultorei, ma per fare attraverso una scultura immateriale cambiare la società direttamente. E qui ci rendiamo conto un po' di com'era l'impostazione di Joseph Beuys all'interno della sua arte. E qui appunto ci troviamo in realtà a Düsseldorf, dove appunto insegnava all'Accademia Joseph Beuys, e come avviene in tutte le città, si creano nuovi piani regolatori, si vogliono fare nuove costruzioni. C'era l'idea appunto di abbattere la foresta in cui si vedono questi artisti, questi giovani C'era l'idea appunto di raderla al suolo per farne campi da tennis. Allora Joseph Beuys, con dei giovani studenti provenienti anche da diverse università, realizza questa azione che è Rettet den Wald, salvate la foresta, nel 1972. E quindi questa truppa antimilitarista imbraccia delle scope di saggina per, in qualche maniera, in maniera pacifista, difendere appunto questa foresta. Vi dicevo che Kiefer studia con dei pittori all'Accademia, ma in realtà è profondamente influenzato da Joseph Beuys. Lui dice: io non sono mai stato allievo di Joseph Beuys, eppure lui è stato il mio insegnante. E infatti lui, partendo da Karlsruhe, un paio di volte al mese andava a Düsseldorf arrotolando i propri quadri sulla macchina per mostrarli appunto al grande mentore Joseph Beuys. E che arte, e qual è l'arte che realizza all'inizio Hansel Kiefer, proprio sulla scorta di questa atmosfera pesante che c'era nei primi decenni del dopoguerra in Germania, e anche sulla scorta di quest'idea di scultura sociale, di fare un'arte magari immateriale che però vada a cambiare le coscienze, che vada a essere anche provocatoria nella società. Tra il 68 e il 69 comincia a realizzare, Kiefer è famoso per la pittura, famoso per le grandi installazioni, in realtà negli anni 60 e 70 parte anche lui dal concettuale, era un po' quella la temperie culturale del tempo, parte dalle cosiddette occupazioni. Provo sempre il mio tedesco stentato, le Besetzungen, che realizza appunto tra il 68 e il 69 e che presenta proprio come esame conclusivo dei propri studi accademici artistici. E in cosa consistono queste azioni che poi lui fotografa e documenta? Praticamente, come lo vediamo in questa foto, in scena il saluto nazista, e si fa carico appunto di questo portato storico della storia recente, che ovviamente era diventato anche in Germania non soltanto un tabù, ma era diventata anche una cosa, come è tuttora, illegale. L'idea è proprio quella, lo scrivono anche i critici, in qualche maniera Kiefer poteva uscire pulito dalla recente storia tedesca. È nato nel 1945, non ha avuto alcun coinvolgimento appunto con la storia nazista, eppure c'è questa necessità di partire dal basso, partire anche da uno stadio molto difficoltoso, per farsi carico di questa storia recente. Chiaramente cosa succede? Un putiferio, perché è un tabù, e quindi anche presentare questi lavori come esame finale crea grande scandalo, anche se viene subito confortato da Joseph Beuys, che gli dice appunto: non riusciresti mai a sembrare un vero nazista. E infatti anche in questo gesto, che chiaramente è molto perentorio, si vedono delle differenze, si vede un certo afflosciarsi del saluto nazista, che invece è molto energetico, è molto retto appunto negli esempi che vediamo nella storia. E chiaramente tutti i professori non lo capiscono, tranne un tale, lo ricorda senza ricordare il nome di battesimo, ma il cognome Kuchenmeister, che capisce questo lavoro, perché comunque è stato effettivamente internato in un campo di concentramento. E Hansel Kiefer l'abbiamo visto precedentemente nel suo studio. Lo studio è un elemento importante, ed è in questo studio appunto che comincia a realizzare queste occupazioni. È proprio un'occupazione col suo corpo dello spazio, e attraverso questo gesto cambia lo spazio. E chiaramente cominciano anche a piovere le accuse di apologia del nazismo e le accuse di revisionismo storico. Quando poi nel 1975 una rivista d'arte d'avanguardia comincia a pubblicare queste foto come progetto artistico consapevole, con una sua ragione d'essere, addirittura questa rivista è costretta a chiudere per le grandissime polemiche che suscita questa pubblicazione. Se prima abbiamo visto Hansel Kiefer nel suo studio, qui vediamo un ulteriore adattamento di queste immagini molto forti. Kiefer davanti al paesaggio, e quindi non solo riprendere un gesto della storia politica drammatica recente, ma riprendere anche una memoria tedesca culturale che Kiefer non vuole abbandonare, che è quella appunto del romanticismo, nuovamente Caspar David Friedrich, il viandante sul mare di nebbia, che qui diventa uno strano cortocircuito tra storia recente e storia più remota. Ringraziamo anche i musicisti, che è per me anche una sorpresa di come poi interpretano le atmosfere non semplici di questi lavori. E però appunto Anselm Kiefer, forse perché è venuto a questa conferenza, è appunto principalmente un pittore, probabilmente ha visto delle sue opere in alcuni musei o delle sue installazioni ed è rimasto rapito appunto da questa grande forza, questo peso specifico, continuo a dire, che hanno le sue opere e anche questa poesia, questa bellezza. E infatti Anselm Kiefer è principalmente famoso per questo. Vi dicevo che i suoi insegnanti all'Accademia, alla Scuola d'Arte di Friburgo, all'Accademia di Karlsruhe, sono due pittori, e infatti lui rientra un po' nel filone del neoespressionismo. Gli anni 60-70 sono stati anni di ricerca concettuale, di dematerializzazione dell'arte, dove era maggiore il pensiero rispetto all'elemento fisico. Verso la fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80 c'è un recupero della materialità dell'arte e anche della voglia di dare un contatto sensibile tra l'artista e colui che percepisce appunto l'arte. I primi lavori, questo appunto Deutschland Geisteshelden, gli eroi spirituali tedeschi del 73, sono questi lavori in cui ancora una volta Kiefer unisce riferimenti culturali e personali. Prima non l'ho detto, mancanza mia, la giacca dell'esercito tedesco era la giacca del padre di Kiefer, quindi c'è anche un elemento comunque di collegamento personale. E continua anche in questi lavori a unire biografia personale e storia culturale tedesca internazionale. E qui appunto ancora lo studio di Kiefer è importante, perché riprende il sottotetto della sua prima casa studio di Waldorf Hornbach nell'Odenwald, e in questo sottotetto appunto lo riprende e diventa quasi una grande navata, una grande chiesa laica, spirituale, religiosa, ma anche in qualche maniera più spirituale che religiosa, che legata a una religione in qualche maniera organizzata, e dove forse qualcuno avrà anche riconosciuto il riferimento a un altro grande artista tormentato come Vincent van Gogh, la stanza di Van Gogh, quindi la ripresa di un proprio spazio che viene però caricato di significati ulteriori. E poi l'elemento della scrittura, vedete in alto, non si vede tantissimo, questa è un'opera monumentale, qui è già molto ridotta, è scritto il titolo dell'opera e in realtà gli eroi spirituali della Germania sono comunque, il pavimento è costellato di queste scritture, dove appunto si rincorrono Richard Wagner, Robert Musil, Federico II, Joseph Beuys stesso, Arnold Böcklin, che in realtà è svizzero, Caspar David Friedrich. Quindi mette un po' tutto l'Olimpo dei suoi riferimenti culturali, delle cose che ammira, delle cose a cui guarda, e in realtà questo è in grande continuità con i lavori che abbiamo visto precedentemente, perché chiaro, lì era esplicito, non si può fare il saluto nazista dopo il 1945, non si doveva fare neanche prima, ma dopo diventa una cosa veramente difficile da sostenere. Però purtroppo a un certo punto, visto che tutta la cultura tedesca era in qualche maniera stata strumentalizzata dal regime nazista, come il fascismo aveva fatto in Italia verso tutta una serie di esempi importanti della cultura italiana, e era complesso anche dire a me piace Friedrich, io sono un seguace di Böcklin, amo Richard Wagner, perché in qualche maniera tutta questa cultura fantastica era stata sporcata ed era stata introiettata dal nazismo. Quindi continuano a piovere le critiche, e McKiefer continua in qualche maniera a lavorare su queste grandi architetture tirate quasi col righello, nel quale siamo noi stessi a entrare, e che ci danno, come dire, una grande sensazione di spiritualità, di assoluto, di riferimento appunto a qualcosa che ci sovrasta. Questo in particolare penso sia la prima opera che ho visto di Ansel Kiefer, è conservata al Centre Pompidou di Parigi, e si intitola appunto To the Supreme Being, quindi all'essere supremo. C'è sempre questo riferimento a qualcosa che appunto ci sovrasta. Se prima era il... La misura non l'ho segnata precisamente, ma parliamo di 2 metri, 3 metri, 2 metri per 3 metri. Sono veramente opere nelle quali si può entrare, si viene accolti, insomma. E se prima appunto c'era più un riferimento al sottotetto della sua casa studio, qui invece credo che il riferimento sia molto forte all'ultima cena di Leonardo da Vinci, dove però appunto tutti i personaggi sono stati levati e c'è semplicemente questa architettura molto vuota. Ho messo anche quest'opera perché, per dire un'impossibilità di queste presentazioni, perché viste dal vivo queste opere veramente trasudano di materia, hanno un aspetto materiale molto forte. Kiefer, ve lo dicevo prima, è come etichetta viene fatto rientrare nel neoespressionismo, quelle correnti come la transavanguardia italiana nel 79, poi negli anni 80, i nuovi primitivi, i neoespressionisti, tutti questi artisti appunto che recuperano una manualità anche molto forte e molto pesante nell'opera d'arte. E quest'opera in effetti non si riesce a percepire in foto, perché è costruita anche di elementi eterogenei rispetto alla pittura. Non è un semplice olio su tela, ma Kiefer spesso inserisce piombo, inserisce cuoio, inserisce paglia, inserisce metallo all'interno delle sue opere, e proprio perché la sua idea è anche quella, e lo dice lui, di utilizzare errori, difetti, imprecisioni, distruzioni come materiale per la costruzione, per la creazione artistica e la creazione anche di poesia. Continuano i riferimenti alla storia antica come alla storia recente, e continuano queste opere pittoriche sulla pianta centrale. Questa invece è dell'83, che ha ripetuto in diverse variazioni più volte, e anche il titolo è tornato in diversissime opere anche recenti di Ansel Kiefer. Il titolo è infatti Al pittore ignoto, e in questa immagine nuovamente si riprende un riferimento al nazismo e all'architetto di Hitler, fondamentalmente, che era Albert Speer. E questa appunto è la nuova cancelleria del Reich di Berlino, che non è arrivata fino a noi perché è stata rasa al suolo appunto dai bombardamenti della alleati e russi della Seconda Guerra Mondiale. Però anche Albert Speer, nonostante sia l'architetto principale del nazismo, interessa Ansel Kiefer, perché nella sua idea voleva creare degli edifici che potessero essere belli anche quando sarebbero diventati rovine. E questo chiaramente è una cosa che interessa molto, lo vedremo dopo a Kiefer, che lavora sulle opere in qualche maniera per renderle già rovine del futuro. E quindi nuovamente questi riferimenti. Ma poi chi è questo pittore ignoto a cui Kiefer tributa moltissime opere? Sapete che c'è il Milite Ignoto, che è un po' un modo per onorare i morti di tutte le guerre, al di là del riferimento a un unico stato, a un'unica nazione. E il pittore ignoto per certi versi è Kiefer stesso, che si prepara già a un futuro anonimato, perché comunque Kiefer davvero è un artista che lavora sulla storia ma ragiona davvero per cicli che superano anche l'umanità, quindi probabilmente si immagina già come un ritrovato di una nuova civiltà, per cui si è anche perso il nome di Anselm Kiefer stesso. Ma nel pittore ignoto ci sono anche tutti quei pittori, e Kiefer lo sa benissimo, espressionisti, dadaisti, oppositori politici che nella Germania nazista sono stati costretti a emigrare. Non so, penso Max Beckmann, prima è scappato in Olanda, poi è fuggito negli Stati Uniti. Tutta una, non una classe dirigente, ma una classe poetica, una classe estetica è stata costretta a fuggire negli Stati Uniti, perché nel 1937 appunto è stata inaugurata questa famosa mostra Arte Degenerata, che in qualche maniera ha messo al bando tutta la ricerca d'avanguardia importantissima, soprattutto legata all'espressionismo e all'astrattismo che c'era in Germania. Ma poi torniamo ancora a quel punto che è un po' il pungolo della colpa tedesca degli anni del secondo dopoguerra. Il pittore ignoto è infine Hitler stesso, perché come sapete Hitler era un aspirante artista, era un artista che in qualche maniera non ce l'ha fatta, è stata rifiutata la sua iscrizione, la sua candidatura, volevo dire, all'Accademia di Vienna, e c'è chi dice che forse se fosse stato in qualche maniera accettato la storia sarebbe stata diversa, avremmo avuto un grande acquarellista e non un dittatore. Thank you. Grazie. E qui ripartiamo con altre opere pittoriche celeberrime di Hansen Kiefer che ci raccontano del suo tentativo appunto di ristabilire una possibilità di bellezza, di sublime, di poesia anche dopo i traumi del Novecento, non soltanto quello tedesco, ma tutti i traumi, insomma. Quest'opera appunto si intitola I celebri ordini della notte del 1997, e quindi anche relativamente recente. E appunto Kiefer nasce con questa massima di Theodor Adorno, per cui dopo l'Olocausto non è più possibile fare poesia per l'uomo occidentale, non è più possibile creare delle cose belle. Allora Kiefer in qualche maniera riparte da zero, l'abbiamo visto prima, c'è questa idea che poi approfondiamo un po' di più sull'alchemica, per cui bisogna partire dal materiale basso per poi innalzarsi. In qualche maniera i lavori che abbiamo visto prima, in cui ci si fa carico personalmente, anche se non si è così coinvolti, di tutta l'eredità, di tutti i gesti, di tutto l'armamentario retorico del nazismo, era una forma per partire appunto dal basso, ma che mira appunto a ritrovare una dignità umana, a ritrovare una forma anche appunto di bellezza. E in questo percorso un poeta che aiuta a riaffermare la possibilità della poesia anche dopo l'Olocausto è appunto Paul Celan, e Kiefer si riferisce spesso a lui e alle sue poesie, alla Todesfuge, alla fuga di morte e a tutto il riferimento che c'è in questa poesia appunto alla memoria dei campi di concentramento, e lo cita molto spesso, non in quest'opera in particolare, però è una forma poetica che sconfessa Adorno, che riafferma la possibilità anche in questa difficoltà, anche tra queste macerie, di ricreare una forma di bellezza. Poi tutto nasce anche da un aneddoto, un episodio per certi versi anche abbastanza comico della vita di Kiefer, che lui racconta in un'intervista, che è appunto la sua prima comunione. Kiefer si appresta a ricevere la prima comunione, questo sacramento, ed ha molte aspettative per l'esperienza che vivrà durante questo rito, perché comunque è un rito religioso che dovrebbe portare a un cambiamento dell'individuo, come tutti i riti teoricamente dovrebbero prevedere. Dopo la prima comunione non sente nulla, cioè vede, come dire, tutto l'armamentario dell'organizzazione, dei parenti, così, ma rimane profondamente frustrato da questa esperienza della prima comunione. E in questa intervista lui racconta proprio che uno dei motivi per cui poi ha cercato nell'arte l'esperienza spirituale, l'esperienza di elevazione, l'esperienza appunto di illuminazione, è stato proprio per cercare di compensare la delusione che ha avuto invece da questa esperienza religiosa. E in quest'opera, I celebri ordini della notte, si vede un po' tutto questo, si vede l'uomo al cospetto delle stelle, quindi anche questa densa materialità che però è indirizzata a guardare verso le stelle, e questo tentativo di ascesi verso appunto, come dicevo anche prima, mondi che ci sovrastano. E appunto questo rapporto tra le epoche, tra le ere, tra l'uomo e le stelle viene anche affermato da Kiefer stesso. Lui dice: io salto da un'epoca all'altra. Per esempio, se volgete lo sguardo alle stelle vi trovate automaticamente in un'altra epoca. Era quello che accennavo prima. Per Kiefer non esistono tanto, è per quello poi che crea anche questi cortocircuiti e questi mescolamenti tra la storia recente, la tradizione biblica, le leggende indiane, è tutto un grande miscuglio, ma semplicemente perché per lui ci sono tre età: c'è l'età dell'umanità, quindi la storia, e c'è l'era geologica e c'è l'era astronomica, quindi lui ragiona in questi termini, e quindi vedete che proprio è un proiettare le temporalità verso dimensioni veramente sovraumane e sovrastanti. Quest'idea di ascesi, di crescita, si realizza poi in maniera emblematica di, come dire, propulsione dal basso verso l'alto nei sette palazzi celesti, che penso molti di voi avranno visto e che, se non lo avete fatto, vi consiglio vivamente di andare a visitare. Questa appunto è un'opera che ha realizzato nel 2004, si trova a Milano, non lontano da noi, all'Hangar Bicocca, che in realtà rientra all'interno di di tutta un'operazione anche di riqualificazione urbanistica, perché insomma il quartiere non era, si stavano facendo degli investimenti, all'interno di questi investimenti anche la realizzazione di un polo museale con una grande opera importante aveva il suo ruolo effettivamente. E però davanti a quest'opera davvero ci si trova davanti a un'impressione di forte sublime. E appunto, quando gli chiedono, questa è un'opera site specific, realizzata apposta sullo spazio, in realtà dice no, più che altro è work specific, non è l'opera che si adatta allo spazio, ma è lo spazio che non è l'opera che si adatta allo spazio, ma è l'opera che cambia lo spazio, che lo trasforma in qualche maniera. E il percorso che vedevamo prima dell'uomo al cospetto delle stelle si ritrova in realtà anche in questa grandissima installazione, che si rifà appunto a un trattato ebraico del V-VI secolo, che racconta appunto un percorso iniziatico dove l'iniziato stesso, per raggiungere Dio, deve attraversare le sette torri celesti, le sette stanze o torri celesti. E ogni torre ha una sua caratteristica, ha un suo carattere, ha una sua specificità, e infatti ogni torre è corredata anche nell'opera di Kiefer da elementi riconoscibili. E l'iniziato, per attraversarle tutte ed arrivare a Dio, arrivare alla divinità, arrivare all'elevazione, deve in qualche maniera aggirare, eludere il controllo o convincere il controllo di questi angeli attraverso dei simboli, attraverso delle parole, attraverso delle offerte, attraverso delle cifrature. E quindi Kiefer realizza appunto questa grandissima installazione, raccontando in diversa maniera questo percorso dell'alchimia, a cui lui è molto legato, dove appunto i materiali dal piombo devono poter trasmutare direttamente. Il percorso dell'alchimista, come dell'artista, è quello di velocizzare la trasformazione e far sì che i materiali bassi possano trasformarsi in materiali nobili, come l'anima stessa dell'iniziato, da anima peccatrice, può diventare anima in qualche modo elevata. E io, vedete, sto facendo un sacco di riferimenti, per cui spesso Kiefer è stato definito un artista critico, un artista filosofo, un artista storico. Abbiamo iniziato dicendo che è l'artista che, più che lavorare con la pittura, con l'installazione, lavora con la storia. Poi tutti gli altri mezzi sono appunto dei mezzi più che altro per parlare di storia. Però lui dice anche questa cosa qui, che è la cosa poi che rende il lavoro di Kiefer veramente affascinante per tutti. E non sono un simbolista né un allegorista, sarebbe un lavoro da scienziati, come lavorava Rubens, che padroneggiava tutto il canone delle allegorie e lo copiava in modo scientifico. Io mi affido alle cose in sé. Il semplice prendere un caffè reca in sé tutta la drammaticità della battaglia degli Argonauti, bisogna solo riconoscerla. E tuttavia questa è l'unica cosa che ci tiene in vita, lo strato dietro. E qui fa riferimento a un lavoro curioso, che è un lavoro fotografico, in cui alla fine di una colazione con i suoi assistenti, il tavolo della colazione con dei soldatini è diventato il campo di battaglia degli Argonauti. Allora l'intervistatore gli dice: qua però allora mi deve spiegare un po' gli Argonauti. Fa: ma no, perché già dire Giasone, già dire Argonauti è un elemento immaginifico che porta delle suggestioni. Poi non è che l'osservatore deve stare col trattato ebraico del V secolo in mano per entrare nel mio lavoro, anche perché poi ci sono continuamente questi cortocircuiti che ci riportano anche immagini molto vicine a noi e molto impattanti a livello empatico e immediato, anche per la qualità dimensionale appunto di questi lavori. E qui infatti volevo parlare anche brevemente degli elementi costruttivi di questa grande installazione, che lui ha realizzato tra l'aprile e il luglio del 2004, E questi appunto sono dei container utilizzati come casseforme per creare questi grandi setti, queste L di cemento armato, e tutte le torri in realtà sono posizionate semplicemente appoggiandole, non ci sono elementi che le tengono unite in maniera costrittiva, ma è tutto un gioco statico, per cui c'è anche un elemento che ci riporta alla memoria alla Torre di Babele, queste torri che si inerpicano, sono incredibilmente statiche ma sembrano anche fragili. E poi ovviamente c'è la memoria a immagini che possono essere della prima, della seconda guerra mondiale o di ieri, a Gaza, di queste città appunto distrutte, dove quindi il Palazzo Celeste è anche rovina di distruzioni umane. E pensate, ogni torre pesa 90 tonnellate, ci sono questi libri di piombo che pesano 100 kg ogni libro, elementi cuneiformi, altri oggetti che danno carattere a queste torri, e ogni setto angolare, quello appunto che crea l'angolo di queste strutture, è di 6 tonnellate. Le varie solette sono di 2,5 tonnellate. E Maurizio Ferraris, a proposito non solo di questo lavoro ma di tutto il lavoro di Ansel Kiefer, parla appunto della rovina come un elemento, lo dicevamo prima, di inizio. Non è una fine la rovina, ma ha la capacità di essere qualcosa che apre il discorso e che crea un'indeterminatezza nella quale poi l'artista entra con grande forza. Abbiamo già cominciato a vederlo in quest'ultima opera dei Sette Palazzi Celesti dell'Hangar Bicocca, ma lo vediamo anche sotto diverse forme. altre forme. Kiefer pittore, sì, Kiefer legato alla pittura, in fondo lui è sempre pittore anche quando costruisce col cemento armato, con le solette, con gli angolari e quant'altro. E però c'è questa pittura che a un certo punto esce dal quadro, questa forza incontenibile della storia, delle cose, della materia, che non riesce a essere contenuta in un quadrilatero che come una finestra ci mostra una scena, ma in qualche maniera diventa scena essa stessa e va a intervenire nell'intero spazio. E quest'opera ad esempio è Melancolie del 1989, vedete un quadro scultura, è diventata una scultura, un aereo di piombo, e anche in questo caso dove storia recente, riferimento culturale, storia del passato si intersecano, dall'altro un aereo che ci rimanda alle guerre, ci rimanda alla guerra totale del Novecento, alla creazione dell'aeronautica all'interno dei conflitti, però l'aspetto malinconico, la melanconia, con questo solido che appunto è molto celebre, è molto conosciuto, è il solido misterioso a cui nessuno è mai riuscito a dare una spiegazione definitiva, che si trova nella melanconia di Dürer, nell'incisione dove c'è questo angelo pensoso con un cane accoccolato ai suoi piedi, e c'è questo strano solido incompleto che non è un cubo, è un cubo in qualche maniera sezionato ulteriormente, e forse in questo sta l'aspetto malinconico, in questa mancanza di un'interezza. E perché Kiefer, come dicevo prima, si salva da una piana spiegazione storica? Perché lui in qualche maniera è un alchimista e un animista, cioè lui, oltre alle storie che racconta con le sue opere, oltre ai riferimenti culturali, lui crede in una qualità intrinseca dei materiali stessi, e quindi una sorta di animismo. Il piombo in questo senso è un materiale fondamentale per lui. E proprio perché all'interno dell'insegnamento medievale alchemico era dal piombo che bisognava lavorare per trasformarlo in oro e in materiali preziosi. E infatti cito direttamente Kiefer, dice: «Il piombo agisce su di me più di qualsiasi altro metallo. Se si indaga su questa sensazione, si apprende che il piombo è sempre stato un materiale per le idee. Nell'alchimia questo materiale era collocato a livello più basso del processo di trasmutazione dell'oro. Da un lato il piombo era opaco, pesante e collegato a Saturno, l'uomo torvo. Nell'altro esso contiene argento e denotava quindi un livello diverso, più spirituale». E quindi anche il riferimento a Saturno, allo studio di Rudolf Witkower, Nati sotto Saturno, che appunto definisce il temperamento degli artisti legati, appunto, sono nati sotto Saturno gli artisti, perché sono personalità complesse, personalità tormentate, personalità che non si riescono a inquadrare in una visione piana, chiara e trasparente. E all'interno di questo processo di trasformazione del piombo e dell'alchimia, che sono molto cari appunto a Ansel Kiefer, e l'alchimista è proprio quello che velocizza i processi. E infatti anche per Kiefer il suo lavoro artistico è quello di in qualche maniera accelerare i processi e trasformare le cose, e lui non sa che altro termine usare se non quello di magia. L'alchimista accelerava questo processo con mezzi magici, si parlava di magia. Come artista io non faccio nulla di diverso, mi limito ad accelerare la trasformazione che è già insita nelle cose. Questa è la magia per come la intendo io. E se qui appunto una cosa aneddotica anche qua interessante, che tutto questo piombo che lui continua a usare l'ha comprato dalla ristrutturazione del Duomo di Colonia nel 1985. Hanno ristrutturato appunto il tetto del Duomo, e lui ha acquistato tutti gli scarti di piombo che sono serviti appunto per il restauro. Dicevamo appunto l'opera d'arte che esce dal quadro, entra nello studio. Qua torniamo allo studio di Karlsruhe di Anselm Kiefer e lo vediamo un po' impersonificare l'artista sciamano che ha portato alla ribalta Beuys, ma in termini diversi. Questo è solo per farvi vedere che lo studio, sin dagli inizi, sin anche dai momenti di, diciamo così, di povertà del giovane artista Kiefer, è sempre stato centrale. Abbiamo visto la prima occupazione realizzata appunto su questa vasca da bagno piena di acqua all'interno del suo studio, ma il suo studio è sempre una grande congerie di cose, un accumulo di materiali, di sporco, di residui che lo fanno diventare un'opera d'arte totale. E il fatto stesso, anche in questi primi piccoli studi, di farsi fotografare come uno sciamano, come un sacerdote spirituale all'interno dello studio, secondo me è significativo di questa dimensione per cui lo studio tende, per questa ragione dell'opera che esce dal quadro, lo studio stesso tende a diventare appunto opera d'arte in sé. E infatti vedete come poi in questo studio a Barjac, nel sud della Francia, questa idea di studio come opera d'arte totale, e quindi ancora, se vogliamo, il riferimento ai grandi eroi della storia tedesca come Richard Wagner, che hanno cercato di realizzare la grande opera d'arte totale, in questi spazi trovano una vera e propria realizzazione. E questo studio Barjac è appunto la Ribotte, un ex filando, un allevamento di bachi da seta, che lui a un certo punto prende. Diciamo che il primo studio un po' importante lo acquista nel 1988 a Opfingen, che era una fornace, quindi sempre delle manifatture, sempre degli spazi che non sono adibiti all'arte, ma che lui comincia a trasformare. E c'è sempre quest'idea per cui il quadro deve decantare, il quadro non è bello sempre, non è pronto subito, magari Kiefer lo realizza e magari il quadro rimane lì dei mesi perché si sporca, perché si rovina, perché ci piove sopra, e poi a un certo punto diventa maturo, diventa pronto per essere raccolto, per diventare un vero e proprio quadro. Nel 1992 si trasferisce appunto qui a Barjac e vi rimane fino al 2007. Adesso questo sito è in qualche maniera musealizzato e quindi anche visitabile, e sicuramente è una delle cose che mi piacerebbe assolutamente vedere nei prossimi anni. Vedete questa citazione di Kiefer: Barjac è un quadro su cui intervengo in continuazione, comincio, lascio, poi lo riprendo. Kiefer appunto nel 92 si ritrova in questa filanda gigantesca con un terreno molto molto ampio, e per artista muscolare qual è, deve in qualche maniera entrare in relazione con questo spazio in maniera altrettanto muscolare, e quindi inizia a creare queste strutture, costruisce anfiteatri, comincia a scavare, mette le opere all'interno di queste strutture, praticamente deve farlo diventare casa propria. E questi sono degli altri palazzi celesti che lui ha realizzato tra il 2003 e il 2018, quindi li ha iniziati un anno prima di quelli di Milano. Vedete che sono anche all'interno di una pozza d'acqua, un elemento lacustre, quindi c'è veramente tutto l'ambiente che entra in questa grande raffigurazione, che poi si ricollega nuovamente al romanticismo tedesco, se pensiamo a queste rovine che vediamo nella campagna dipinte da Friedrich stesso. E qui osserviamo ad esempio l'anfiteatro, dove se fate attenzione all'interno di questa costruzione, che richiama sempre le strutture in cui utilizza i container come casseforme, vedete che in questi spalti, in questi spazi, ci sono appunto le opere d'arte, più che altro scultoree prevalentemente in piombo, che devono appunto andare a maturazione, devono diventare, insomma, devono essere pronte per essere poi a un certo punto raccolte e veicolate all'interno del circuito artistico, galleristico, museale internazionale. E c'è questo aspetto poi che mi ha sempre un po' affascinato di Kiefer, l'ho accennato all'inizio, di un artista che è profondamente tedesco, è importante perché è cosmopolita, si apre alla diversità, a tutte le culture, però è consapevole della necessità di essere radicati e, come vedevamo nei lavori iniziali, di assumere il peso anche del proprio radicamento, che non può essere eluso, per poi partire alla ricerca di altro. Però poi c'è questo legame particolare con la Francia, e questo, anche questo aspetto in qualche modo anticipato nella sua biografia, è dato proprio, credo, dall'essere nato al confine con la Svizzera, essere cresciuto in un territorio di confine, e lui vedeva sempre il Reno appunto come elemento di confine, come elemento divisorio tra la sua città e la Francia al di là della Germania, che per lui la Francia era appunto il mondo intero. E c'è anche questa bella immagine che usa Kiefer, per cui vedeva il Reno appunto come un confine da valicare, però ogni tanto il Reno stesso esondava e finiva nella cantina di casa dei suoi genitori. Allora a quel punto non capiva più se il confine era nel fiume o era nella cantina di casa sua. E questo elemento del confine, secondo me, è interessante, perché poi, guarda caso, Kiefer ha fatto della Francia la sua vera casa d'elezione, e da questo primo passo poi si è aperto veramente a viaggi che lo hanno aperto a tutto il mondo. Adesso il suo studio lo ha a Parigi, a Creuil-Beaubourg, che è appunto un quartiere della periferia di Parigi, e sta creando anche lì una grande opera d'arte totale che staremo a vedere appunto come si realizzerà effettivamente. Questo è un altro che sembra una semplice galleria, in realtà è un'altra parte del grande atelier studio di Barjac, è la Galleria di Euridice, che scava tra il 99 e il 2002. Nel documentario di cui vi parlavo all'inizio, L'erba crescerà sulle vostre città, e si vedono proprio questi lavori di escavazione, dove praticamente Kiefer, con l'aiuto ovviamente di una grande stuola di aiutanti, approccia l'architettura, approccia l'ambiente come se fosse davvero un quadro gigantesco nel quale si entra effettivamente. E quindi poi, quando un artista diventa molto famoso, diventa anche effettivamente potente, non potente a livello politico o necessariamente economico, ma potente nel senso che ha la capacità, con la sua forza, e di realizzare tutto quello che ha in testa, arrivano anche le critiche, che sono le critiche appunto di gigantismo e di fare una grande impresa. E infatti un intervistatore a un certo punto gli dice: ma lei a Barjac sta realizzando la sua impresa, sta realizzando una grande azienda. E lui dice, si difende ovviamente contrattaccando, dice: lei sa cos'è un'impresa? È volta alla massimizzazione del capitale. Io faccio il contrario, io distruggo il capitale, tolgo denaro dalla circolazione e lo porto a un punto estremo, esattamente il contrario di ciò che Marx ha definito con il termine di capitalismo. Vendo solo i quadri necessari a mantenere in vita la mia attività. Il nuovo atelier è un progetto a lungo termine, quindi sta già parlando di quello di Parigi, e già esiste il terreno in cui si costruirà prima che io muoia. E quindi già questa prospettiva di una grande costruzione che appunto andrà avanti per molto tempo. E all'interno di queste costruzioni, e qui c'è un riferimento a una mostra recente che alcuni di voi sicuramente hanno visto, vi dicevo che questi quadri devono trasformarsi, devono maturare. Questa è un'immagine di una delle sale finali di questa mostra che si è realizzata l'anno scorso a Palazzo Strozzi, secondo me molto bella, ma dove anche lì, ovviamente, quando i grandi artisti raggiungono la celebrità, ha comunque suscitato tra curatori e artisti un po' di accuse, come dire: beh, Kiefer sì, era un grande, però negli anni 80, negli anni 90, adesso si è imbolsito in qualche maniera. Ma io devo dire che mi è piaciuta molto proprio per la capacità, che non è da tutti, di riuscire a mantenere un discorso di una tale densità, di una tale forza, e di riuscire sempre a reinventarsi e a ragionare appunto sulla storia e a rilanciare anche i propri errori. Vi dicevo appunto, negli studi, questi quadri che maturano, questi quadri che si trasformano. In quella stessa mostra volevo ricordare Il dipinto principale era esposto nella corte di questo palazzo, Palazzo Strozzi, che all'inizio appunto mi desta anche, io che poi lavoro in un museo e quindi ho in qualche maniera a cuore la conservazione, l'idea di esporre un quadro esposto realmente alle intemperie era una cosa nuova per me, però c'è davvero anche questo in Anselm Kiefer. E questi sono i Vestralte Bilder, i dipinti irradiati. Anche qui la datazione è interessante perché sono stati realizzati tra il 1983 e il 2023. E lui rispetto a questi dice: la distruzione è parte del processo creativo, io metto i miei quadri all'aperto, li immergo in bagni elettrolitici. E qui mi ricordo ad esempio un'altra mostra, il Sale della Terra, che ha realizzato ormai una quindicina d'anni fa i Magazzini del Sale, Fondazione Vedova di Venezia. Va avanti Kiefer. La scorsa settimana ho esposto una serie di dipinti che per anni sono stati sottoposti a una sorta di radiazione nucleare all'interno di container. Ora soffrono di malattie da radiazione e sono diventati temporaneamente meravigliosi. Quindi addirittura ha esposto a radiazioni questi quadri che poi erano effettivamente presenti in mostra, e queste radiazioni hanno trasformato i pigmenti, hanno trasformato anche le materie. C'erano anche delle esposizioni fotografiche su piombo che in qualche maniera sono cambiate, però c'è questo fascino molto forte sul lavoro di distruzione che può diventare costruzione e sulla la rovina che può diventare qualcosa di nuovo. L'opera è in continuo mutamento e ancora una volta è come dire riferire l'opera a un alla radiazione crea nuovamente un cortocircuito tra vedere un'opera e la paura per il nucleare, il fascino, la paura e tutto quello che è successo, come è finita la Seconda Guerra Mondiale, ma poi Chernobyl, la Guerra Fredda, appunto Nagasaki, Hiroshima e quant'altro. Ecco, uno dei quadri che in qualche maniera ha raggiunto la sua maturazione, quindi può essere esposto, può essere a noi visibile, è questo Iron Path, questo percorso di ferro del 1986, e quindi è anche una conclusione, è un ritorno alla pittura per cui Anselm Kiefer è molto forte, è molto riconosciuto, e quest'idea per cui lui si sposta in questi atelier in bicicletta, si muove tra un quadro e l'altro, ha degli spazi veramente monumentali e ogni tanto questi quadri raggiungono il momento conclusivo. Volevo concludere appunto con questa immagine che nuovamente è caratteristica anche di una serie di lavori pittorici che Kiefer ha fatto su queste lande desolate, con un impatto materico davvero, davvero molto forte. C'è uno spessore di 5-10 cm di pittura, sono presenti elementi metallici sul quadro, sono presenti delle scarpe, si vedono appunto degli elementi materici, e anche qui tutto sommato Kiefer non dice niente, parla di un percorso di ferro con dei bivi che si aprono tra loro, e il rimando però credo sia immediato e drammatico nuovamente ai campi di concentramento e ai treni appunto carichi di ebrei che prendevano una strada in quel momento non si sapeva esattamente dove appunto li avrebbe portati. Un'altra serie di lavori di Kiefer è appunto quella che intitola Salendo, salendo sprofondo, è un altro titolo che torna molto spesso negli ultimi lavori di Kiefer, e nuovamente c'è questa dinamica tra la salita e la discesa, tra la materia e l'elevazione. Sono dipinti appunto che ci immergono nei drammi della storia, nei drammi della materia, in questo animismo della materia, ma in qualche modo ci portano anche a una meditazione sulla storia e ci pongono di fronte a questo, credo, aspetto sublime nuovamente dell'arte, dell'estetica e della storia che in qualche modo credo che ci trasformi. E quindi vi lascio su questa immagine molto suggestiva. Thank you. E grazie a Rino Cavalli, percussioni, Luca Dall'Asta, piano, giusto, e Gianni Casalnuovo, armonica, doveva essere contrabbasso. Grazie alla scuola Cesfor e alla biblioteca per l'accoglienza. Se avete domande, curiosità, perplessità, ci proviamo. Forse alcune ci sono anche, però devo dire che appunto all'Hangar Bicocca a un certo punto alcuni anni fa hanno aggiunto delle opere, ce n'è una ad esempio con un arcobaleno, sempre che riprende un po' un immaginario romantico friedrichiano, ma devo dire che dove c'è troppa serenità sono quelle opere di Kiefer che mi piacciono di meno, mi piacciono, mi coinvolgono di meno e mi sembrano meno forti. Credo che comunque appunto il peso specifico di quest'artista si misuri nel trattamento proprio di questo dramma, per cui poi l'impatto per me è in qualche modo positivo, però sì, si passa sempre da una sofferenza, come fosse un po' una catarsi. Sì. Beh, consiglio di andare a Milano a vedere questa installazione. E poi, allora, vediamo un po'. Come? Ogni tanto, sì, c'è stata una mostra a Venezia, una mostra a Firenze, mi hanno detto che a Palazzo Reale Milano ci sarà una mostra l'anno prossimo, e poi ecco, un artista che comunque nei musei tedeschi principalmente si trova esposto, ricordo. Sì, sì, stavo pensando in Italia, perché anche al Marta abbiamo delle opere di Kiefer, ma al momento non sono in esposizione. E a Roma c'è, ecco. Sì, dipende poi se lo mantengono in magazzino come attualmente stiamo facendo noi, se sono in esposizione. Tendenzialmente, cioè, non so, penso a Monaco, si trova una stanza dedicata a Kiefer, mi ricordo che c'erano anche sia la Neue Nationalgalerie, mi pare c'erano anche proprio le sue grandi teche, quindi anche questi lavori tridimensionali. Però sì, anno prossimo Milano. E se no, Hangar Bicocca adesso è, oltre all'installazione ci sono anche dei dipinti di grandissime dimensioni esposti, però l'Hangar Bicocca mi è un po' dispiaciuto perché le prime volte che ho visto l'installazione era appunto così, era molto sporca all'interno e non si poteva entrare, non si poteva girare tra le torri. E adesso, anni dopo, l'hanno ripulita, hanno radunato un po' i cocci attorno a ogni torre, hanno messo questi grandi quadri e le persone possono attraversarla. Da un lato molto bello, perché uno è molto più coinvolto, però devo dire che mi piaceva molto di più quando invece tu vedevi tutto dall'esterno e quindi c'era anche questo fascino della distanza ed era davvero molto più rovina, era molto più, doveva essere provvisoria, questo non lo sapevo. E l'ho visto, ma poi avevano fatto anche dei convegni, mi ricordo, avevano messo un palco in mezzo, avevano fatto tutta una serie di cose che per me l'hanno guastata. Devo dire che ho avuto la fortuna nei primi anni, perché ero ancora all'università, di vederla ed è stata una sorpresa davvero impattante, anche se la prima cosa è stata proprio al Centre Pompidou. Però sì, Kiefer comunque è abbastanza, è un grandissimo artista, adesso non so quanti anni ha, più di 80 anni, della contemporaneità. Sono i due migliori. Beh, vi ringrazio se non ci sono altre domande.